chi non mi conosce mi chiamo Fulvio, e perché sono qui? Dunque, io collaboro con Cospe prevalentemente, però diciamo, ho seguito la riforma del terzo settore fin dalla sua nascita in quanto rappresentante della Federazione delle ONG Italiane nel tavolo tecnico legislativo, diciamo, del Forum Nazionale del Terzo Settore. E qui diciamo, da diversi anni ho approfondito questa materia, ho avuto diverse esperienze anche diciamo, consulenziali, anche di lavoro con diverse associazioni, sia per accompagnare diciamo, questa transizione diciamo, della riforma, sia anche per diciamo, individuare anche le migliori forme diciamo, di sviluppo, di crescita, di trasformazione, di fusione anche per alcune organizzazioni. Diciamo. La materia non è una materia diciamo, facile, perché è una materia recente e come ho detto recentemente Marzocchi, vabbè, che è uno dei CGM, insomma, l'anno del 2023 sarà l'anno delle ricerche empiriche in materia di coprogettazione, perché oggi parliamo di coprogettazione e coprogrammazione, che sono due istituti, come vengono chiamati, due norme che sono contenute nella riforma del terzo settore, in modo particolare nel decreto 117, che regolamentano appunto i rapporti tra gli enti del terzo settore e le pubbliche amministrazioni. Okay? Quindi questo è il focus diciamo, su cui ci dedicheremo, tenuto conto che diciamo, la città metropolitana ha deciso diciamo, di dare in gestione diciamo, quel territorio diciamo, di Mondeggi Vene Comune tramite questo strumento, che noi abbiamo trasferito. Poi tiriamo fuori dal cappello Sacchè, però andiamo per la sera. Quindi ci dedichiamo a studiare questa materia. Allora, gli enti del settore sono degli enti fondamentalmente senza finalità di lucro, okay? Senza finalità di lucro, che hanno finalità civiche e di solidarietà fondamentalmente, e hanno l'obbligo di svolgere delle determinate attività ai sensi dell'articolo 5 di questo decreto. Bene, tra queste attività ce ne sono diverse, diciamo, le più disparate, e quindi da questo punto di vista diciamo, la riforma, uniformando un po' quel marasma che c'era precedentemente, diciamo, aiuta un po' anche gli enti diciamo, a scegliere la miglior modalità organizzativa, ma anche diciamo, a optare per la miglior formula fiscale, anche se però ad oggi la fiscalità del terzo settore ancora non è completamente chiara. Però questo per dire che appunto gli enti del settore non hanno finalità di lucro, non possono distribuire gli utili, attenzione, questo è un concetto molto importante, non è che gli enti del settore non possono fare utili. Cos'è un utile? Tornando un po' ai discorsi che ha fatto Luca l'altra volta. Esatto, quindi tra i ricavi e i costi è quello che avanza, quindi non è che un ente del settore non può fare utili, cioè deve fare chiaramente, poi dal punto di vista fiscale ancora non si sa bene come andrà a finire questa partita del 5-6% degli utili che saranno tassati del centro, però in linea di massima è bene che un ente faccia utili, perché vuol dire che è un ente che ha un equilibrio reddituale, cioè che riesce a sostenere i propri costi tramite le entrate, i ricavi, bene? Poi dipende se bilancio le competenze del caso, però diciamo, tramite i propri ricavi. Quindi questo è il primo concetto. Senza finalità di lucro non può distribuire gli utili e deve svolgere le attività senza l'articolo 5. Ma c'è un passaggio ulteriore della riforma FA, che a differenza di come era regolamentato prima, questo ci interessa a noi perché entra poi in merito alla questione della sostenibilità e anche del progetto probabilmente di Mondeggi, è la questione dell'articolo 6, cioè gli enti del settore possono comunque svolgere attività diverse dall'articolo 5. Cosa vuol dire? Che se l'ente del settore, oltre alle attività ai sensi dell'articolo 5, vuole aprire una macelleria, può aprire la macelleria. L'importante è che i ricavi di quella macelleria non siano superiori a un determinato percentuale ai ricavi delle attività istituzionali e anche in base ai costi ci sono, insomma, c'è un decreto per regolamentare questa roba. Quindi questo è un vantaggio, diciamo, perché prima non c'era tutta questa libertà, anche le stesse ONUS comunque avevano dei limiti, potevano fare solo alcune attività connesse, dicendo, ora se voglio fare qualsiasi cosa che non sia direttamente attinente alla mia attività istituzionale, non sono libero di farlo. Ecco, quindi questo è un punto che va tenuto presente. Oltre a questo, poi chiaramente c'è l'articolo 7 che garantisce invece l'attività di raccolta fondi anche di natura imprenditoriale, quindi organizzata, a differenza di prima che non era, diciamo così, in maniera così esplicita, così definita. Ora, io non vorrei mettermi a fare l'elenco delle normative, della storia delle normative della coprogettazione. Io entrerei subito nel merito delle più recenti, diciamo, quelle che ci interessano a noi, che praticamente sono quelle che si riferiscono al decreto, al codice del terzo settore. Il codice del terzo settore sono tre gli articoli che ci interessano, sono il 55, 56 e 57, che regolamentano appunto la coprogettazione e la coprogrammazione. Beh, ora, il testo praticamente, la parte che, diciamo, definisce la questione della coprogettazione è, lo possiamo semmai vedere qui per meglio, eccolo qua, quindi nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e progettazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi sociali, le amministrazioni pubbliche, quindi anche la città metropolitana perché ci entra, anche perché la regione ha legiferato in materia del terzo settore. Nel 2020 ha legiferato, c'è un articolo, l'articolo 11 della legge 65 del 22 luglio 2020 che regolamenta la coprogettazione a livello regionale toscano, incluso gli enti locali, che poi andremo a vedere. Comunque, praticamente nell'esercizio delle loro funzioni le amministrazioni assicurano il coinvolgimento attivo degli enti di terzo settore, quindi già il requisito è essere enti di terzo settore. Ora, se la città metropolitana, come vedremo dopo nello strumento, nel procedimento amministrativo, inserirà dei requisiti che includono o escludono tipologie diverse dagli enti di terzo settore, noi questo oggi non lo sappiamo. E quindi, visto che la discussione è aperta e quindi qualsiasi domanda vi venga, fatela subito, nel senso interrompetemi tranquillamente, una delle prime cose che dovremmo capire dal punto di vista tattico, strategico, è capire quanto anticipare la scrittura dell'avviso e quanto concorrere alla scrittura di questo avviso. Perché noi li abbiamo fatto bene, però non ci si fida, se voi ricordate, di Luca l'altro giorno, la parola fiducia è una parola che innanzitutto deve essere lavorata tra chi aderirà a questo progetto, che già è una roba grossa. Immaginiamoci poi a creare fiducia all'amministrazione, che chiaramente in questa situazione, diciamo, andiamo subito al fulcro delle questioni. L'altro giorno sono passato con Michele, non so se lo conoscete, però è il presidente di Allani, passato per Mondeggio, erano tanti anni non ci andavo, io mi chiedo, e un po' Arbaia ce l'ha fatto capire l'altro giorno, no? Ma in questa trattativa con la mia convenzione, ma le strade, ma chi le fa? Loro. Ma la manutenzione. Cioè ci sono degli aspetti che noi dobbiamo in qualche maniera incardinare fin da subito. Queste sono state comunali. A maggior ragione. Quindi figuriamoci, quindi diciamo ci sono degli aspetti che, cioè bisogna, come anche la manutenzione del verde, chi li dà le danno? Chi li dà a noi? Con quei soldi? Cioè, sono utili e faremo. Ah, ok, ti spieghiamo. Oppure mettere le altre Arbaia, infatti, nell'accordo che ha attualmente, deve occuparsi del verde. Come parte del contratto. Questo è uno degli aspetti, diciamo, che vanno gestiti in sede preventiva, quindi capire tatticamente come è possibile partecipare alla scrittura, all'ideazione dell'avviso, perché poi il procedimento prevede un avviso di evidenza pubblica da cui poi nasce tutto il tavolo di progettazione e così via, o come in sede di tavolo negoziare queste questioni. E quanto siano negoziati? Noi potremmo essere chiamati a coscrivere l'avviso. Scrivere no. A coscrivere così no. No, diciamo che noi dobbiamo usare tutte le armi e le relazioni possibili che in questo momento ci sono nel canale della città metropolitana per capire cosa c'hanno nella testa. Questo è facile. No, se non c'hanno nulla, meglio. Se c'è l'absus, bene. non so se saranno loro i facilitatori del tavolo, però sta di fatto che comunque loro non daranno, non si sa neanche se daranno tutta in coprogettazione i lotti. È un mistero anche questo. Allora, quello che c'è bisogno di capire in questa fase probabilmente è sondare con loro, in maniera franca, diciamo, capire che spazi ci sono, perché il progetto comunque quello è, quello rimane. Quello del PNRR non lo possa cambiare, cambieranno anche virgola, ma nell'avviso quello sarà l'oggetto. Non è che lo cambia, no. Quindi quello è l'oggetto. Quindi bisogna capire all'interno dell'avviso che ha una sua certa struttura quali sono le parti negoziabili, quali sono le parti che possono essere appunto negoziate per quanto riguarda la relativa gestione. Quindi questo è un aspetto, diciamo. La coprogettazione, cioè la negoziazione durante la coprogettazione. Allora, diciamo, se andiamo al procedimento direttamente, diciamo, che il procedimento. Faccio una domanda io. Allora, innanzitutto prima per chiarire bene cos'è la coprogettazione rispetto a quello che è un rapporto di servizio fra un ente tipo un RSA che svolge un servizio sociale o un ente privato che fa educazione e così via, che risponde al codice dei contratti pubblici, al codice dell'appalto. Qui, tramite la sentenza di Cassazione di 2 anni fa, la coprogettazione non risponde a quella roba lì, alla legge 50, va bene? Quindi segue il decreto 117. Quindi praticamente è uno strumento di sussidiarietà in cui i cittadini organizzati gestiscono in partenariato con le amministrazioni pubbliche i piani di zona, comunque gli obiettivi di piani di zona. Okay? Quindi noi ci stiamo dentro questa roba. E attraverso un rapporto convenzionale, una convenzione formale che viene sottoscritta con un ente o con più enti, secondo le caratteristiche del progetto, e con delle risorse economiche in gioco, che possono essere risorse patrimoniali, beni, possono essere anche risorse economiche, proprio bene. Quindi tutto questo fa parte un po' dell'idea che loro hanno in mente di come intendono sviluppare. Il procedimento c'è, allora la procedura viene fatta, vabbè, c'è una delega assunta dall'ente dove sono approvate le bozze degli atti, vabbè. Poi la pubblicazione degli atti della procedura, quindi l'avviso, il modello di domanda, di partecipazione, il documento progettuale di massima, una sintesi, diciamo, lo schema della convenzione, quindi nell'avviso c'è già lo schema della convenzione, quindi loro hanno già deciso quali cose, quali impegni tu devi dargli, perché la convenzione contiene anche i famosi impegni, pulisci le strade, danni gli alberi, le tese che si rompe il tetto me la aggiusti, le opere ordinarie, le opere straordinarie, sono tutte cose che al momento noi non sappiamo come verranno deliberate, come verranno, diciamo, però questi sicuramente ci vogliono mettere una lira, immagino. No, questo lo voglio dire fuori. Appunto, e quindi diciamo. Non c'è una parte del PNRR di somma destinata a dopo? Questa è una bella domanda. No, non c'è. Quindi non c'è nessuna, non c'è nessuna risorsa. Ah, poi c'è la pubblicazione degli atti, c'è la nomina del seggio di gara per i lavori di verifica delle domande, i verbali delle operazioni di verifica, la valutazione delle proposte, la conclusione del procedimento, lo svolgimento del tavolo di coprogettazione. Quindi prima, diciamo, il grosso, diciamo, dei vincoli vengono decisi a monte nell'avviso, perché la convenzione viene stipulata e parte dell'avviso. Nel tavolo di coprogettazione praticamente lì innanzitutto, soprattutto se sono più enti, cercheranno di capire qual è il grado, se c'è un facilitatore cercheranno di capire qual è il grado di coesione e di definizione dei singoli progetti all'interno del progetto più grande, no? Quindi è un lavoro comunque di costruzione del partenariato fondamentalmente, diciamo. E chiaramente lì dentro poi verranno anche decisi i servizi, probabilmente faranno anche un lavoro sulla sostenibilità economica, probabilmente questo non si sa bene nell'avviso se loro chiederanno anche un piano economico, probabilmente sì, immagino che chiederanno un budget, diciamo, di riferimento, perché comunque fa parte, diciamo, anche della verifica, diciamo, dei progetti. Prego.